Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A oggi nella zona rossa, ma non è detto che non avvenga altrove, si presentano alle porte dei cittadini delle persone vestite con le tute della Croce Rossa dicendo che sono lì per fare degli screening, quindi degli sciacalli che si introducono a casa delle persone. Non c'è nessun volontario della Croce Rossa o altro che è stato inviato a fare screening in maniera senza che ci sia una richiesta sua o una comunicazione prima della TS. E sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ci mancano pure gli indegni sciacalli in questa situazione generale già particolarmente difficile e per tutti. A questo si riferisce, lo avete sentito in questo passaggio, l'assessore al welfare della Lombardia Gallera, cioè agli sciacalli, a coloro che hanno pensato bene di sfruttare questa situazione per truffare persone che abitano da sole o anziani, fingendosi volontario o personale sanitario che va a fare i tamponi. Quindi mi raccomando, chiunque fosse interessato in queste zone a possibili casi di questo genere, lo sappia, sia avvertito e avverta anche gli altri. E ne parleremo, ovviamente ci concentreremo, inevitabile, no? Visto che la situazione ci riguarda molto da vicino come italiani. È successo proprio qui a Effetto Notte, che abbiamo sentito dei primi casi venerdì, e c'era il sindaco di Codogno, il paese che è diventato simbolo della zona rossa in Italia, in Lombardia, che dovremo raggiungere tra poco, tra l'altro, qui a Effetto Notte. Così come sentiremo la portavoce per le relazioni esterne per l'Europa dell'OMS tra poco qui, responsabile per l'Europa, per capire un po' che strategia adotteranno. Domani c'è una riunione importante delle autorità italiane con i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi dovremo raggiungere anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, perché ha chiesto al governo, e sembrerebbe abbia anche ottenuto, di poter mettere in quarantena i clandestini che si trovano sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Per i vostri commenti di quest'altra intensa puntata di Effetto Notte, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete inviare SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ripeto, 349-238-6666. Partiamo subito con la sintesi della giornata. L'evolversi del coronavirus: sono salite a 7 le vittime in Italia, oltre 200 i contagiati, non ci sono nuovi focolai, dice la Protezione Civile, disagi per i trasporti ferroviari dopo il blocco di un treno per la sanificazione. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, chiede che i migranti irregolari possano essere messi in quarantena, e l'OMS, preoccupata per la situazione italiana, dice che certamente l'Italia si sta comportando al meglio, e a Effetto Notte sentirete la portavoce per l'Europa. Le ricadute economico-finanziarie: il ministro Gualtieri annuncia lo stop alle tasse nelle zone rosse, Piazza Affari cancella i rialzi, in Europa in fumo 352 miliardi. Germania, auto sulla parata di Carnevale, almeno 30 i feriti, per la polizia si tratta di un gesto intenzionale e non si esclude l'attentato. Stati Uniti, l'ex re di Hollywood, il produttore Harvey Weinstein, condannato per atti sessuali, rischia 25 anni per 2 capi di imputazione. Portò gli esseri umani nello spazio, è morta Katherine Johnson, la storia della scienziata raccontata nel film Il diritto di contare. Calcio, Agnelli a Radio 24 dice bene la VAR, quanto lo scudetto temo la Lazio e la sua spensieratezza, e per le partite a porte chiuse per il coronavirus sottolinea prima la salute delle persone. Partiamo quindi dai principali sviluppi legati all'epidemia del coronavirus, il Covid-19, che sapete è scoppiata in Cina a fine 2019 e da allora si è diffusa in 28 stati nel mondo. L'Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi, dopo la Cina, che ne ha 77.000 circa, e la Corea del Sud 763. In base all'ultimo bollettino, infatti, per quanto riguarda l'Italia, sono 229 i casi accertati nel nostro paese, contando anche i decessi, che sono arrivati a 7, anche chi era malato ma poi è guarito. I comuni in quarantena sono 11 in Lombardia, dove è in vigore un provvedimento che prevede, tra le altre cose, la chiusura delle scuole, ma anche delle palestre e di molte manifestazioni, di eventi dove ci sia assembramento. Il malore di un capostazione, forse legato al coronavirus ma ancora in attesa di accertamento, ha causato il blocco del traffico ferroviario nella stazione di Casal Pusterlengo, creando pesanti disagi a catena sulla linea Torino-Milano-Bologna-Roma-Salerno, che dovrebbero protrarsi fino a martedì. E sentiamo cosa ha detto oggi in conferenza stampa il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Borrelli. Il legame tra i focolai, io ancora non ho avuto, conferma di questo legame. Non è diventata una pandemia per i dati che abbiamo registrato nel resto del mondo, quindi credo proprio che questi valori che abbiamo registrato nel nostro paese siano non tali da giustificare il mutamento della tipologia di epidemia in pandemia. E il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, esprime preoccupazione per l'improvviso aumento dei casi in Italia, in Iran e Corea del Sud, loda comunque le azioni intraprese dai governi di Roma e Seul e sottolinea che al momento si può parlare solo di epidemia, ma dice dobbiamo fare ogni cosa possibile per prepararci a una potenziale pandemia nel mondo. In Cina giunge la diffusione del coronavirus, ha raggiunto il suo picco tra il 23 gennaio e il 2 febbraio e da allora ha cominciato a diminuire in maniera consistente e dicevo tra poco qui effetto notte ci sarà la responsabile per l'Europa delle relazioni esterne dell'OMS. E sin qui il quadro generale, ma con un'attenzione particolare sulla Lombardia, facciamo ora il punto sul Veneto. L'ultima novità nel Veneto interessato dai tre focolai di coronavirus, Vo, Mira e Venezia, è la comunicazione della regione che ha deciso di procedere con massicci acquisti di materiale sanitario. 280.000 mascherine in consegna da domani e 100.000 tamponi e test, 30.000 in consegna per il fine settimana, e poi camici, calzari, occhiali protettivi e visiere e gel disinfettante. La comunicazione avviene nel giorno in cui a Vo Euganeo è arrivato l'esercito con altre forze dell'ordine per far rispettare i blocchi ai 10 varchi comunali. Nessuno esce, nessuno entra. Proprio a causa dei tamponi insufficienti si sono sollevate le proteste di molti cittadini che stamane erano pronti ad effettuare il test, ma i tamponi a disposizione non erano sufficienti. Il sindaco Giuliano Martini fa sapere che oggi si è proceduto con il test su 250 persone di Vo Centro e nei prossimi giorni si procederà con le frazioni, non su tutta la popolazione per ora, ma sui possibili casi di esposizione e su chi presenta sintomi influenzali. A breve ci sarà anche l'esito del test sul presunto paziente zero, l'agricoltore 65enne di Albettone nel Vicentino, che afferma di essere stato a Codogno in altri centri dell'Lodigiano nei giorni scorsi e che presenta sintomi influenzali. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo, da Israele all'Irlanda, vari paesi sconsigliano i viaggi in Italia, la Francia isola chi torna da Lombardia e Veneto. Nel frattempo, al TG1, il ministro Gualtieri ha annunciato che ha firmato il decreto ministeriale per la sospensione degli adempimenti e pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per i cittadini e imprese nella cosiddetta zona rossa, che stanno subendo le conseguenze più pesanti. Una misura, ha detto, doverosa per i cittadini ai quali siamo tutti vicini. Gualtieri ha anche annunciato di aver già concordato con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, la sospensione delle rate dei mutui per i residenti della zona rossa. Oggi abbiamo varato questo decreto ministeriale con cui sospendiamo gli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per i cittadini e le imprese dei comuni della cosiddetta zona rossa, che stanno subendo le conseguenze più pesanti delle misure di contenimento del virus. È una misura doverosa nei confronti di cittadini ai quali siamo tutti molto vicini. Nel frattempo, come vi dicevo, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ha chiesto e dice di aver ottenuto dal governo la possibilità di mettere in quarantena i clandestini irregolari sul territorio della regione. Cercheremo poi di raggiungerlo tra poco. Allo studio anche un decreto legge con tempi più lunghi per il sostegno a tutta l'economia italiana colpita dall'emergenza. Domani ci sarà un incontro del ministro Patuanelli con le categorie economiche. E sempre sul fronte economico, borse mondiali e europee alla prova di questo effetto coronavirus. Wall Street procede in terreno negativo anche se riduce le perdite e lunedì nero per l'Europa, in particolare per la piazza di Milano. Crollano anche le quotazioni del petrolio, meno 5%, e tutti i settori dell'economia soffrono in Italia. I timori legati all'espandersi del coronavirus affossano tutti i mercati azionari del vecchio continente, in fumo 352 miliardi. Francoforte ha concluso in calo del 4,01%, Parigi in ribasso del 3,94%, mentre Londra ha perso il 3,34% finale. Giornata pesantissima per Piazza Affari, le vendite hanno colpito molti settori, in particolare lusso, turismo e commercio, e l'indice FTSE MIB ha chiuso in calo del 5,43%, mentre il FTSE All Share in ribasso del 5,51%, e le preoccupazioni nel nostro paese si moltiplicano anche nel tessuto imprenditoriale produttivo. Secondo la Fiavet, per le imprese turistiche che muovono il 13% del PIL italiano, la situazione è gravissima. Federalberghi segnala molte cancellazioni in un periodo, febbraio e marzo, in cui gli esercizi ricettivi italiani ospitano 14,5 milioni di turisti italiani e stranieri, ma gli albergatori rassicurano: Milano è una meta sicura. E anche il segretario generale di Confesercenti Mario Bussoni lancia l'allarme sulle perdite di fatturato, ma sottolinea: problemi di scorte non ce ne sono e non ce ne saranno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'emergenza coronavirus ha fermato gran parte delle manifestazioni sportive. Per il calcio si va verso le partite a porte chiuse, poi torneremo a parlarne in questa puntata, così come di tutti questi temi legati a questa epidemia. Vi ricordo l'iniziativa di Radio 24 con gli infettivologi, appuntamento fisso di Obiettivo Salute Speciale tutti i giorni su Radio 24 alle 10.45 in onda con Nicoletta Carbone e poi sul sito. All'estero adesso Germania, 30 persone sono rimaste ferite, 10 in modo grave dopo che un uomo alla guida di un'auto ha travolto la folla durante un corteo di carnevale a Volksmarsen nell'Assia tedesca. Tra i feriti anche alcuni bambini, l'uomo alla guida è un tedesco di 29 anni, la polizia parla di gesto intenzionale e non esclude l'attentato, annullate per precauzione le sfilate nella regione. Negli Stati Uniti invece l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato giudicato colpevole nel processo a suo carico per 2 capi di imputazione su 5, atto sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado, e rischia da 5 a 25 anni di prigione. Poi ci collegheremo con gli Stati Uniti. Spazio e storia, è morta a 101 anni Katherine Johnson, la matematica, informatica e fisica statunitense, afroamericana e originaria della Virginia, che ha contribuito con i suoi calcoli a lanciare la corsa nello spazio lavorando per la NASA. La sua storia è stata raccontata finalmente nel film del 2016 Il diritto di contare, che invece nel titolo originale è Figure nascoste, perché è rimasta nascosta il suo grande contributo fino appunto a questo film. Nel 2015 l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama l'ha insignita della Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti. Cartoni animati, per la prima volta un personaggio gay entra nell'universo animato della Disney nel nuovo cartone Onward, prodotto da Disney e Pixar e ambientato in un mondo suburbano di fantasia. Appare brevemente una poliziotta da un occhio solo, Officer Specter, che parlando con altri personaggi fa sapere di avere una compagna e insomma dicono i produttori che hanno voluto aprire di un pizzico, dicono, il nostro mondo e farlo più rappresentativo della società intorno a noi. Tante altre cose, tra poco aggiorniamo intanto chi sta viaggiando e poi cominciamo dopo questo lungo punto comunque per la maggior parte sul coronavirus con gli ospiti, cominceremo ad approfondire. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Stavo guardando gli ultimi aggiornamenti perché naturalmente è inutile che io vi precisi da cosa partiremo e a cosa sarà dedicato, a quale tema la gran parte anche di questa puntata, perché diciamo dopo circa 2 mesi che vi aggiorno quotidianamente sul coronavirus nel mondo, a maggior ragione da venerdì, da quando cioè sono scoppiati i primi focolai in Italia, in Lombardia e Veneto, mi focalizzo inevitabilmente con gli ospiti sulla situazione italiana. E sono 229 i contagiati, questo per quanto riguarda il bollettino in Italia, contagiati dal coronavirus, comprese le 7 vittime ufficiali e una persona che è guarita. Il commissario straordinario Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa alla Protezione Civile, avete sentito che cosa ha detto, che ancora appunto non si tratta di epidemia. E proprio venerdì la prima persona ospite di Effetto Notte è stato il sindaco del primo paese della cosiddetta zona rossa dell'Odigiano, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, che saluto. Grazie sindaco di essere ancora qui a Effetto Notte. Buonasera. Grazie, buonasera. E ricordo presidente anche della provincia di Lodi, in questi giorni ha sulle sue spalle un carico incredibile, la vedo sempre però col sorriso sereno, giustamente dà l'energia giusta anche alla sua comunità, no? Circa 16.000 abitanti. È giusto cercare, sì, sono 16.000 abitanti, ma penso che sia giusto, l'approccio sia quello di dover essere tranquilli comunque, nessun panico, nessuna ansia, anche perché ribadisco, vista la situazione emergenziale, diciamo quelli che sono i beni di prima necessità, i generi di prima necessità, i medicinali e quant'altro sono approvvigionati regolarmente, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Particolari non ci sono anche, e non ci saranno, ecco. Anche se siete in quarantena da 3 giorni, no? Però anche per quanto riguarda la spesa, gli alimentari, mi sembra che siate riusciti a organizzarvi, sindaco Passerini. Sì, poi come abbiamo messo in campo anche i volontari della Protezione Civile per cercare di effettuare quelli che sono i servizi a domicilio per le figure fragili, che possono essere anziani, disabili, persone che abbiano insomma qualche tipo di criticità. Quindi complessivamente, sindaco Passerini, questi 3 giorni come sono passati? Come stanno reagendo un po' tutti i suoi concittadini? Ma penso che dopo magari un pochettino di, di spaesamento, spaesatezza iniziale, pian piano si sta trovando un equilibrio in questa situazione che sicuramente di normale ha poco. Però la responsabilità, la maturità che stanno dimostrando tutti i concittadini, oltre ai miei concittadini, anche quelli di tutta la zona rossa, penso che sia veramente di grande maturità, proprio perché si è capito che quelli che sono tutta una serie di consigli, di metodi da mettere in campo, vanno a tutela della loro ma anche della salute degli altri. Quindi... Certo, vedo poco fa il Presidente del Consiglio Conte ha detto è difficile prevedere l'evoluzione dei contagi ma siamo nelle condizioni di poter prevedere un impatto positivo delle misure messe in campo per il contenimento della diffusione del virus come quelle appunto che state mettendo in pratica voi, Sindaco. Senta, sì. Una cosa, un medico che ha aiutato il padre medico, un medico di base da voi a Codogno ha detto mancano i tamponi che servono appunto per fare il test per vedere se sia positivo o no il coronavirus e dice sono finiti, è così? Quindi c'è questa carenza? Allora, per quello che le posso dire, a me non risulta che siano finiti i tamponi, le dico la verità. Che si sia cambiata una modalità di applicazione dei tamponi, che è quella che ha annunciato appunto l'assessore Gallera, ma assolutamente non sono finiti, no, assolutamente no. Guardi, anche perché il numero di tamponi fatti è veramente alto ed è in continuo aumento, quindi non c'è questo problema? No, io non ho avuto segnalazioni di questo genere, anzi i tamponi, quelli che sono i procedimenti così, continuano in modo previsto, ecco, in modo normale, per quanto si possa dire normale. Bene, allora io Sindaco Passerini la lascio, la ringrazio. Grazie. Francesco Passerini, grazie mille. Grazie, buon lavoro, buona continuazione, visto il suo impegno a tutto campo. Stavo guardando anche, tra poco sentiremo, stiamo per raggiungere la portavoce per quanto riguarda l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Cristiana Salvi, però stavo vedendo anche che prosegue la polemica politica. Salvini oggi ha ancora detto chi ha sottovalutato, chi non ha adottato le misure necessarie dovrà pagare, e allora risponde Conte a Salvini che dice in questo momento qualcuno dovrebbe pagare per le sciocchezze, non vorrei essere costretto a mostrare i messaggi e le telefonate che ho fatto a Salvini, perché Conte ieri e anche stamattina ha assicurato di aver informato tutti i leader dell'opposizione, compreso Salvini, di averlo chiamato due volte al telefono, di aver scritto un messaggio, ma che lui non ha risposto. Salvini dice non ho visto nessuna telefonata. Allora prosegue Conte, sto leggendo le sue dichiarazioni, lui potrà partecipare al tavolo che faremo anche con l'opposizione e nel frattempo si dovrebbe astenere dallo speculare. Dottoressa Cristiana Salvi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sappiamo che lei appunto è responsabile relazioni esterne dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda l'Europa. Lei è già arrivata in Italia perché domani mattina avete questo incontro importantissimo proprio per capire quali strategie approntare per il nostro paese, che purtroppo ha questo record negativo in questo momento, risulta il terzo paese al mondo dopo Cina e Corea del Sud per contagi, giusto? Sì, è molto importante lavorare a stretto contatto con le autorità italiane, sia nazionali che regionali, proprio per capire di più a proposito di questo virus, di come si sta comportando. In qualche modo abbiamo rilevato un aumento repentino del numero dei casi in pochi giorni, alcuni dei quali non hanno un chiaro legame epidemiologico, cioè con i viaggi in Cina e con alcuni casi conclamati, per cui sicuramente è importante capirne di più e vogliamo capirne di più insieme alle autorità italiane che finora stanno facendo un ottimo lavoro. Per voi l'Italia rappresenta un caso molto specifico rispetto ad altri paesi d'Europa, perché qualcuno dice, i virologi che interpelliamo ci dicono, ma forse anche perché in Italia c'è un controllo a tappeto molto più scrupoloso che in altri paesi europei, Francia, Germania, Spagna eccetera, o non è questo, è proprio un caso specifico il nostro? Beh, sicuramente il discorso del controllo a tappeto e anche dei test con strategia ampliata possono contribuire ad aumentare il numero dei casi che si stanno registrando. Comunque è importante avere questa mappatura in qualche modo del legame epidemiologico dei casi, questa è la cosa più importante, anche per avere la possibilità di rintracciare tutti i casi e quindi gestirli come c'è bisogno. e qui in qualche modo le autorità italiane stanno mettendo in piedi delle misure importanti di contenimento, e questa è la direzione in cui dobbiamo andare. E il nostro lavoro qui non è per in qualche modo scrutinare, è soltanto per imparare insieme quello che sta accadendo e per offrire tutto il nostro supporto per quello che le autorità italiane possono avere bisogno. Quindi per voi dell'OMS, dottoressa Cristiana Salvi, l'Italia sta approntando tutte le misure di prevenzione, di sicurezza e tutto quello che poi ne consegue quando ci sono i contagi, e quindi con capacità, insomma, con efficacia? Noi abbiamo in qualche modo raccomandato delle misure su scala globale, però è chiaro che ogni paese sta analizzando il rischio, le misure necessarie per affrontarlo sulla base del contesto specifico, e questo è quello che ha fatto l'Italia in base in qualche modo all'osservazione del numero dei casi che stava aumentando. Quindi le misure che l'Italia sta mettendo in piedi, in particolare nel nord del paese, sono misure che in qualche modo affrontano la situazione come si sta evolvendo. Il resto d'Europa, se dovesse darci un quadro così un po' generale, come è messo rispetto a noi, al di là dei numeri? Ma proprio... In questo momento a livello europeo i casi che vediamo in maggior numero sono in Germania, Francia e nel Regno Unito, e anche in altri paesi, specificamente in Germania abbiamo visto una trasmissione locale della malattia. Quindi il quadro in qualche modo a livello del tipo di trasmissione che stiamo osservando del virus è un quadro in qualche modo che accomuna tutti i paesi, una trasmissione ancora che avviene con stretto contatto e quindi attraverso le goccioline di saliva. Non abbiamo ancora evidenze di una trasmissione diversa del virus, cioè in maniera facile. Quindi questo in qualche modo è quello che vogliamo anche verificare in Italia con a stretto contatto appunto con le autorità italiane. Dottoressa Salvi, per chiudere, l'OMS ha detto che si tratta ancora per il momento di un'epidemia, e quindi non è una pandemia a livello globale diffusa capillarmente per tutto il mondo, però dobbiamo prepararci alla pandemia. Allora, l'OMS ha detto che non parliamo ancora di pandemia, vale a dire una pandemia praticamente è una situazione in cui un virus nuovo si diffonda in molte aree del mondo, però con una trasmissione facile da uomo a uomo. In questo momento non possiamo parlare di una trasmissione facile, ancora parliamo di trasmissione localizzata e con contatto ravvicinato attraverso appunto le goccioline di saliva. È chiaro che è importante prepararsi per qualunque eventualità, quindi in questo momento è quello che osserviamo, questo tipo di trasmissione, prepariamoci per quello che vediamo. E la preparazione che cosa riguarda? Riguarda maggiormente identificare i casi, testarli immediatamente per poterli poi gestire clinicamente come si conviene, in particolare con l'isolamento. Un'altra cosa molto importante è prevenire e controllare le infezioni in ambito sanitario e la comunicazione con il pubblico. Benissimo, allora non ci resta che augurarle buon lavoro, dottoressa Cristiana Salvi, ricordo responsabile delle relazioni esterne dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. Grazie, buon lavoro allora, buona continuazione. Grazie a voi, buon. Grazie infinite. E saremo a vedere, insomma, domani mattina che cosa emergerà da questa riunione tra l'OMS e le autorità, i vertici italiani. Adesso stavo guardando un aggiornamento che riguarda le partite a porte chiuse, e questo è spadafora a parlare. Il ministro dello sport si aspettava questa decisione per quanto riguarda appunto gli eventi sportivi e le partite in particolare di Serie A e non solo. Nelle aree interessate all'emergenza coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse, lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora al TG2 al termine del Consiglio dei Ministri. Poi ne parleremo tra un po', e vedevo anche nel frattempo un messaggio di un ascoltatore, se non sbaglio che è Francesco, che diceva ti pare, dice Roberta, è logico che facciano le partite a porte chiuse e poi continuano a far viaggiare la gente sulla metropolitana, tantissima gente schiacciata, compressa eccetera. In effetti è, diciamo, una cosa, però è che probabilmente al momento non si sa se sia fattibile, se sia il caso anche di bloccare i trasporti, per esempio come una città di Milano, che sono così capillari, così utilizzati. Comunque intanto vi farei sentire, a proposito di domande e risposte, Marcello Tavio, che è presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, che è stato intervistato questa mattina da Nicoletta Carbone a 24 mattino, ma da domani sarà fissa in Obiettivo Salute alle 10.45 con le domande e le risposte ai virologi. Questa è l'iniziativa in accordo con i virologi italiani di Radio 24. La domanda posta al professor Marcello Tavio, che ha posto Nicoletta Carbone, è: il coronavirus, molti lo paragonano a una spagnola, sapete, l'influenza terribile che ha fatto tanti morti all'inizio del Novecento, e dice molti la spagnola la paragonano alcuni a un'influenza. Chi ha ragione? Sentiamo il professor Tavio. Ha ragione chi la paragona alla spagnola, perché la mortalità del nuovo coronavirus è percentualmente simile a quella che fu associata alla spagnola, quindi è senz'altro una malattia seria, perché se si confermano i dati che la Cina ci comunica, poi dopo vedremo di verificarli anche noi per conto nostro, la mortalità è del 2%, tra il 2 e il 3%, ed è una mortalità elevata. Spalmata su una normale epidemia influenzale si tradurrebbe in migliaia di morti, cosa che non succede con la normale influenza. Quindi è più simile alla spagnola come tipo di patologia. Certamente questo non deve farci prendere dal panico, perché comunque è chiaro che abbiamo gli strumenti per intercettare la malattia e fermare il contagio. Siamo perfettamente in tempo e con il tempo svilupperemo anche il vaccino in tempi relativamente rapidi, forse non così rapidi da intervenire nei prossimi mesi, ma sicuramente a breve. Bene, allora adesso lasciamo giusto per una pausa di riflessione e di respiro. Ci sono ancora tanti vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, per esempio Salvatore, che dice: buonasera Roberta, ma ti sembra credibile che ci siano tutti questi casi in Lombardia e Veneto e nulla nelle vicine Francia e Svizzera e Austria? Dei casi pochi, però ci sono anche lì. Ma avete sentito con la responsabile per l'Europa della OMS, appunto poco fa qui Effetto Notte, che ha detto che effettivamente intanto in Italia si stanno facendo dei controlli a tappeto che non si fanno altrove. Poi capiremo nei prossimi giorni effettivamente a cosa è dovuta questa specificità. Poi dice sempre Salvatore: ci sono tantissimi treni tra Milano e il resto d'Europa, non è che noi troviamo i casi perché li cerchiamo, ed è possibile questo. E poi dice ancora: certo, se i paesi vicini non hanno controllato è chiaro che poi non si trova un legame epidemiologico per i nuovi casi, eccetera eccetera. Ci sentiamo a momenti, torno ratta come alla folgore per i vostri commenti. Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e vi confermo che appunto poco fa il ministro dello Sport Spadafora ha detto che effettivamente prossimamente nelle aree interessate dall'emergenza coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, se volete anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, in modo che un giorno non potrete dire: io questa non la sapevo. A proposito di una notizia importante, su queste notizie importanti di questi giorni proprio non c'è modo di non sapere se ascoltate Effetto Notte, perché vi faccio il punto quotidianamente su tutto quello che di più importante succede, in particolare sul coronavirus e sugli sviluppi del Covid-19 nel mondo e in Italia in particolare in questi giorni, da venerdì, da quando c'è stato ospite il sindaco di Codogno, perché da lì è partito il primo focolaio per quanto riguarda l'Italia, quindi tra Lombardia, Veneto e non solo, casi in Emilia Romagna, in Liguria eccetera. Ho visto anche adesso ci sarebbe un altro atesino contagiato, però vi facevo già il punto poco fa, insomma, di quanti sono i contagi e delle vittime, che per il momento in Italia sarebbero 7 tutti. Però è stato detto anche dall'assessore al welfare della Lombardia Gallera, così come dal capo della Protezione Civile Borrelli, che si tratta di persone purtroppo che avevano già la salute compromessa da alcune fragilità. Adesso passiamo sempre su questo tema a un'altra Un'altra considerazione: il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è intervenuto giorni fa qui a Effetto Notte, è proprio il giorno in cui i presidenti del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia avevano chiesto la quarantena per i bambini di ritorno dalla Cina, oggi ha chiesto la quarantena per i migranti irregolari che venissero rintracciati sul territorio del Friuli Venezia Giulia. E subito lo saluto, presidente Fedriga, buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. E grazie a lei della disponibilità. Quindi lei ha fatto questa richiesta, mi pare che il governo l'abbia accolta, da quello che leggevo? Sì, è una richiesta in conformità con quanto già viene fatto per chi arriva irregolarmente attraverso il mare, quindi sbarcando. Un luogo chiesto che venga utilizzato lo stesso trattamento anche per chi entra irregolarmente via terra. Ovviamente trattandosi di fatto di stesse circostanze è necessario che ci siano anche le stesse risposte. E per questo ho avuto un via libera da parte del governo, che ovviamente starà organizzando, perché tutto questo tipo di attività dipende da enti dello Stato, affinché ci possa venire anche in Friuli Venezia Giulia, penso a tutela non soltanto della nostra regione ma di tutta Italia. E infatti pensavo che se parte dal Friuli Venezia Giulia c'è il via libera del governo, questo può valere per tutto il territorio nazionale, no? Per tutte le altre regioni. Però mi chiedevo anche, presidente Fedriga, poi a livello di strutture, tutte queste persone, se dovessero essere un certo numero, insomma, dove potranno essere collocate per questa quarantena? No, adesso penso che le stiano individuando, ribadisco, dipende da enti dello Stato, ma in questo momento noi abbiamo con l'inverno non un numero eccessivo di ingressi, e quindi penso che sia assolutamente gestibile la situazione. È chiaro che è un tipo di persone che arrivano, vengono da paesi dove i controlli sanitari di fatto non sono sicuramente quelli occidentali, arrivano principalmente da Afghanistan e Pakistan, ed è chiaro quindi che è assolutamente utile evitare di avere un secondo fronte, perché noi abbiamo adesso il fronte interno del coronavirus, direi di evitare di andare verso anche un rischio di un fronte esterno che potesse giungere sul territorio nazionale. Presidente Fedriga, chi per esempio come Piera, tra i vari messaggi che stanno arrivando, dice: dopo i clandestini proporranno la quarantena per gli ebrei? Sa che c'è sempre, no, questo rischio poi di pensare che siano atteggiamenti o misure discriminatorie, cosa risponde? Guardi, quando io insieme al presidente Zaia, Fontana e Fugatti abbiamo chiesto la quarantena, che lei giustamente ricordava, per i bambini provenienti da aree affette, anzi per tutte le persone provenienti da aree affette della Cina che dovessero frequentare le scuole, ci hanno dato dei razzisti, degli xenofobi, degli intolleranti. Ma di fatto il governo ha preso le stesse nostre indicazioni, anzi forse un pochino ammorbidite, ma quelle indicazioni avallate anche da scienziati di fama internazionale, che sicuramente non si possono definire leghisti, come Burioni, come il professor Burioni o come Ricciardi dell'OMS, oggi preso oltretutto come consulente del Ministero della Salute. Quindi devo dire che reputo veramente stupide affermazioni di questo tipo in un momento come questo. Noi stiamo cercando di fare di tutto per arginare il virus. Il Friuli Venezia Giulia fortunatamente oggi non ha casi all'interno del territorio regionale, ma abbiamo preso misure preventive uniformandoci e facendo anche noi un'ordinanza come quella del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Quindi scuole Lombardia chiuse. Lombardia ha aggiunto diciamo qualcosa in più, come le attività diciamo dei pubblici esercenti chiuse dalle 18 in poi. Noi invece, come il Veneto e le altre regioni che le ho citate, non abbiamo messo limitazioni ai pubblici esercenti. Però sospensione scuole. Delle scuole, ecco, appunto, manifestazioni, sì, eventi di ogni forma di aggregazione, esatto, in luogo pubblico, privato, le gite dei ragazzi, eccetera. Senta, per chiudere, perché so che è molto preso anche lei, presidente Fedriga, di questa polemica. Sì, sono giornate impegnative, effettivamente. Se lo so, le rubo giusto questo momento per chiedere. Figuri, è un piacere, anzi, la ringrazio, siccome è giusto fare la corretta informazione, la ringrazio per quello che fa. Grazie a lei. E da una parte Salvini in questi giorni, insomma, ha attaccato parecchio il governo dicendo che ha sottovalutato, che chi ha sbagliato deve pagare, che effettivamente, che secondo Salvini c'è qualcosa che è andato storto per colpa del governo e che quindi Conte vada a casa. Conte dice: io ho preso tutte le misure che dovevo prendere, il governo ha agito come doveva, anche l'OMS ha detto che l'Italia ha agito nel modo giusto. E poi Conte ha detto anche di avere coinvolto prima di prendere alcune decisioni anche ultimamente in questi giorni l'opposizione. Ieri avrebbe telefonato e informato i vari leader anche dell'opposizione, compreso, dice Salvini, io ho fatto due telefonate più un messaggio. Salvini dice che in realtà non ha ricevuto nessuna telefonata e che chi ha sbagliato, ha ribadito, deve pagare. Allora, poco fa Conte ha detto, vediamo se ritrovo la... Eccolo qua, è difficile prevedere l'evoluzione dei contagi, ma siamo... No, questa è un'altra. Ha detto, in questo momento qualcuno dovrebbe pagare per le sciocchezze, ha risposto Conte a Salvini. Non vorrei essere costretto a mostrare i messaggi, le telefonate che ho fatto a Salvini. Di nuovo è intervenuto poco fa il leader della Lega che dice, insultare la Lega e Salvini è davvero demenziale, c'è qualcuno che gode perché i morti sono in Lombardia, c'è qualcuno a sinistra, pochi per fortuna a godere dei morti. Allora questa cosa non mi risulta, se fosse sarebbe una cosa terribile, ma insomma mi pareva che anche oggi il presidente della regione Veneto Zaia, sempre della Lega, abbia detto lasciamo da parte le polemiche, se ci sono tanti casi in Italia forse anche perché facciamo molti controlli a tappeto che magari altre nazioni non fanno. Lei come valuta tutta questa polemica, questi botte a risposta, Fedriga? Guarda, io non conosco ovviamente se Conte ha chiamato o non ha chiamato Salvini ed altri. Quello che le posso dire è che Matteo Salvini quotidianamente vi chiama, almeno per quanto mi riguarda, per conoscere la situazione e cercare la massima collaborazione, e più volte ha ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni, quindi con un grande senso delle istituzioni e del problema. È altrettanto vero che parlo in questo caso non a nome di come governatore, ma come rappresentante di una forza politica, che noi in questi giorni, anche da rappresentanti importanti del governo, anche da ministri del governo, abbiamo sentito offese pesanti semplicemente perché sottolineavamo il pericolo e le misure preventive da prendere, come quella quarantena che lei ha ricordato. E quindi allora io direi che forse, soprattutto chi ha il dovere di governo, che quindi forse ha un dovere ancora maggiore rispetto a un normale componente del Parlamento, debba tenere quei comportamenti responsabili, e se una sollecitazione arriva dall'opposizione non può essere tacciata prioristicamente come razzista e intollerante, ma forse deve essere valutata per gli effetti che può produrre, che in alcuni casi sono assolutamente positive, come ribadisco, la necessità era assolutamente importante mettere in quarantena chi veniva, indipendentemente, non ribadisco, che fossero cinesi, polacchi o italiani, chi veniva dalla Cina, per cercare di tutelare al massimo il territorio nazionale. Detto questo, Presidente Fedriga, quindi è il momento adesso di essere tutti uniti in Italia, dalla politica alla popolazione, di avere buon senso e responsabilità per i cittadini, di agire nel modo più razionale, appunto ragionevole possibile, per la politica anche di agire per il bene, no, comune. Che dice? Guardi, io sto facendo riunioni quotidiane con i rappresentanti del governo in modo assolutamente collaborativo. Le due proposte che ho formulato le ho formulate prima di renderle pubbliche in modo riservato al Presidente del Consiglio, quindi per quanto ci riguarda c'è la totale volontà di collaborare ed essere costruttivi, in questo momento non si può scherzare. Credo altrettanto che sia necessario al massimo fare prevenzione, e bisogna essere chiari con i cittadini, non stiamo parlando in questo momento, dei dati che abbiamo a disposizione, di un virus che ha una letalità particolarmente elevata, anzi. Il problema è che richiede molta ospedalizzazione nel caso si espandessero i contagi. In questo momento i contagi, se non si tiene sotto controllo, sono facilmente espandibili perché il nostro sistema non conosce quel virus. E quindi è come se non avessimo alcun tipo di anticorpi, a differenza delle normali influenze, mirati a contrastarlo. E dunque, se si espande e un 15-20% ha necessità di ospedalizzazione, se i numeri diventano troppo ampi, rischia di entrare in crisi il sistema sanitario. E per questo stiamo facendo tutte le operazioni per cercare di contrastare il virus, per non trovarci in quella situazione. Allo stato attuale penso quindi che le misure siano giuste e doverose, anche quelli un po' più forti, che capiamo creino disagio, però in prospettiva sono convinto potranno anche portare a un vantaggio di tipo economico, quindi non soltanto di tipo di salute, perché se riusciamo in questo obiettivo, che non è scontato, perché nessuno ha la bacchetta magica e nessuno può fare l'impossibile rispetto a quello che stiamo mettendo in campo, però vuol dire che magari tra qualche settimana riusciamo a tornare in una situazione di normalità, che vuol dire anche aiutare la nostra economia, perché pensiamo, se questa situazione si prolungasse magari nella stagione primaverile, dove abbiamo i grandi accessi turistici del nostro paese, che danno economico si creerebbe. Bene, speriamo di no, speriamo che le cose volgano al meglio con la collaborazione di tutti. Grazie intanto e buon lavoro al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Grazie. E viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prendiamoci adesso una piccola pausa da tutto questo approfondimento, anche da questa prima puntata della settimana sul coronavirus. Abbiamo fatto tutto il punto per quanto riguarda l'Italia e brevemente nel mondo, e poi abbiamo avuto la rappresentante, la portavoce per l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, è stata ospite, domani ci sarà questo vertice importante con le autorità italiane, e poi abbiamo sentito il sindaco di Codogno che ci ha dato di nuovo un po' il punto della situazione nel primo paese che è diventato simbolo in Lombardia e anche in Italia per primo, del primo focolaio che è scoppiato, e con adesso una dozzina di comuni che in particolare in Lombardia sono nella cosiddetta zona rossa. E poi avete appena sentito il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su questa richiesta che ha fatto al governo e che è stata accolta di poter mettere in quarantena i clandestini sul territorio della regione, che evidentemente se è stata accolta dal governo potrebbe diventare anche una misura nazionale. Ora, dicevo, ci stacchiamo per un attimo e andiamo in una situazione, in una realtà sovranazionale fuori dalla nostra nazione. Ci colleghiamo con gli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania. Caro Marco, buonasera. Ben trovato Marco. Si è arrivati adesso a un esito della brutta vicenda che ha come protagonista quello che sino a poco tempo fa era considerato il re di Hollywood, l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, che è stato, vi ricordate, tutta la vicenda del Me Too, delle donne, il movimento delle donne, che è nato proprio dalle denunce di tante attrici, poi donne anche normali, delle molestie subite, anche di violenze sessuali, in questo caso proprio dal produttore che era così potente, poteva decidere della vita e della morte di molte persone. È stato giudicato colpevole nel processo a suo carico, Weinstein, per 2 capi di imputazione su 5, atto sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado, e rischia 25 anni. Raccontaci un po', Marco, più nel dettaglio. Sì, è proprio così. Il caso, diciamo, il processo simbolo dell'era Me Too, si è concluso comunque quantomeno con una parziale vittoria delle vittime, delle donne che hanno accusato Weinstein di abusi sessuali, di violenza e di stupri per anni, e diciamo, anche se la giuria non è riuscita a l'ha assolto di 3 dei 5 reati di cui era accusato, tra cui i 2 più gravi che lo accusavano di essere un vero e proprio predatore sessuale, quindi di avere, diciamo, commesso atti di violenza, di stupro nei confronti di molteplici vittime, lo ha comunque trovato colpevole all'unanimità di 2 dei reati, come dicevi tu, 2 reati che potrebbero comunque per i quali potrebbe comunque rischia una condanna al carcere di anche oltre 25 anni. Uno dei 2 reati, quello di primo grado, rischia da 5 a 25 anni, per il secondo reato di stupro di terzo grado rischia fino a 4 anni. Il giudice ha annunciato che la sua decisione sulla pena verrà annunciata l'11 marzo, quindi c'era ancora molta attesa per quanto severo sarà il giudice nel condannare poi Weinstein. Poi ci sarà chiaramente l'appello, ma è comunque un messaggio sicuramente forte quello della giuria e del processo nei confronti di Weinstein, nei confronti degli abusi alle donne. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance Jr., che aveva portato il caso appunto per violenza e stupro, si è comunque detto soddisfatto dell'esito, anche se solo parziale, e ha reso omaggio al coraggio delle donne che si sono, diciamo, esposte in prima persona per denunciare. Senti, e quando si saprà effettivamente quale potrà, se ci sarà la condanna e quale sarà? Ma si saprà proprio l'11 marzo, difficile che vengano fuori delle indiscrezioni prima di questo, perché dipende proprio dal giudice il quale ha stabilito l'11 marzo come data per la condanna. Ricordiamo che le vicende giudiziarie di Weinstein, tra l'altro, non si fermano a New York. Questo rappresenterà un precedente importante, perché ci sarà comunque un ulteriore processo previsto a Los Angeles per altri reati, sempre di abuso sessuale nei confronti di 2 donne, di violenza e di abusi, e questo, diciamo, a sua volta, il caso, diciamo, nella contea di Los Angeles, a sua volta potrebbe portare a un'ulteriore condanna di Weinstein parallela. Ci saranno chiaramente gli appelli degli avvocati di Weinstein, ma diciamo, al momento sicuramente la sentenza rappresenta un successo per il movimento Un'ultima domanda che fa un ascoltatore, non so se sai rispondere a questa, Marco, non sei tenuto, qui si va proprio nel dettaglio. Dice: sono state considerate credibili anche le accuse di Asia Argento? Sai che c'erano tante polemiche in Italia. Sì, diciamo il caso è stato limitato a due delle donne, proprio perché è un caso molto casi molto complicati. In alcune la procura, diciamo, distrettuale è riuscita a portare accuse formali solo per loro due, perché in altri casi le accuse erano decadute, il reato era comunque decaduto o non c'erano sufficienti prove. Quindi, diciamo, è stata limitata a queste due donne, con una terza attrice, Annabella Sciorra, che diciamo, è stata portata in tribunale per supportare un'ulteriore accusa, che era quella proprio di accusa di essere un predatore sessuale. Le accuse però di Annabella Sciorra non sono state giudicate dalla giuria sufficienti a condannare Weinstein per il reato, appunto, più grave, che prevedeva l'ergastolo, che era quello, appunto, di essere un predatore sessuale. Le accuse invece delle altre due, un'ex produttrice e un'ex attrice, sono state giudicate sufficienti per la condanna che poi è arrivata. E ci aggiorneremo poi per l'11 marzo. Grazie Marco Valsani dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao. A voi. Questa mattina molto presto inoltrato una richiesta ufficiale per quanto riguarda la gara di giovedì di Europa League, che vede protagonista appunto l'Inter a Milano, e siamo in attesa di un riscontro che già ci è stato preannunciato positivo per quanto riguarda la disputa della gara a porte chiuse. Questo è il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gravina, e poi che chiedeva, appunto, no, si parlava ritornando sul coronavirus, della possibilità di continuare il campionato di calcio ma a porte chiuse, ed è arrivato, vi aggiornavo poco fa, no, la conferma del ministro dello sport Spadafora, che ha detto: nelle aree interessate dall'emergenza coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Ecco, Dario Ricci, è arrivata la conferma, quindi ciao Dario. Sì, buonasera. Circostanziamo meglio quello di cui stiamo parlando, per questo che ho chiesto il tuo intervento, naturalmente. Appunto, il presidente Gravina faceva in quel caso riferimento già al primo appuntamento, un programma che è giovedì, questo giovedì al Meazza, è la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Inter e Ludogorets, che quindi molto probabilmente l'UEFA al 99% darà il via libera a disputarsi a porte chiuse. È arrivato, come sottolineavi giustamente, il via libera anche da parte del ministro dello sport, e poi verrà formalizzato, insomma, col decreto conseguente, al disputare le gare interne nelle sei regioni interessate dall'emergenza a porte chiuse. Cosa vuol dire a porte chiuse? Che chiaramente ci saranno le squadre in campo, gli operatori dell'informazione, gli operatori federali, quindi tutti i giudici di gara che permetteranno lo svolgimento corretto e anche la gestione logistica della partita, ma non ci saranno sugli spalti gli spettatori. Esattamente. Ricordo le regioni, Dario, che sono, scusa, Lombardia, sì, Veneto, Piemonte, allargato anche al Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Questo leggo dall'agenzia. Sì, esattamente, quindi ecco. Nel prossimo weekend saranno 5 le gare interessate, e diciamo quella che spicca di più è chiaramente il big match più atteso. Ne ha parlato oggi anche Andrea Agnelli, il presidente della Juventus, ospite di tutti i convocati, e cioè il big match appunto tra Juventus e Inter. E certo, nel quadro della situazione generale assolutamente difficile, fa molta malinconia immaginare una partita così attesa, appunto, senza il pubblico sugli spalti. Da sottolineare anche che altre federazioni, ad esempio volley e rugby, hanno sospeso l'attività su tutto il territorio nazionale fino appunto a domenica 1 marzo, mentre la Lega Pro ha rinviato 2 giornate di campionato, e i dilettanti nelle 6 regioni coinvolte hanno sospeso tutte le gare che insistevano su questo territorio. È arrivato, e poi vado a chiudere, Roberta, in attesa magari di tue domande, invece l'assicurazione del CIO per quanto riguarda Olimpiadi. I giochi di Tokyo 2020. Esattamente, al momento si continua a lavorare per i giochi, non ci sono rischi di rinvio al momento, insomma. Bene, grazie da Ricci, anche questo aggiornamento sullo sport un po' più in generale. Adesso direi che vi devo salutare, poi torno velocissima. Dice un ascoltatore: pensavo che tu dicessi errata come la Folgore. No, ratta come la Folgore, veloce come la Folgore. Dice: da ex paracadutista ero un po' perplesso, ma Folgore intendo proprio il fulmine, velocissima alle 22.